Bam! Che diavolo sto guardando? Quando è che questo accade nel film? Adesso! Sta guardandolo adesso, signore. Tutto ciò che avviene adesso sta avvenendo adesso. Che è successo al prima? È passato. Quando? Adesso. Siamo all'adesso adesso. Torniamo al prima. Quando? Adesso. Adesso? Adesso. Non posso. Perché? L'abbiamo superata. Quando? Proprio adesso. Quando il prima sarà adesso? Presto. Quanto presto? E al grido di viva le donne diamo la soluzione del test attitudinale di quest'oggi. Lei si chiama Vivian Westwood, ma chi era? La soluzione A ipotizzava che fosse una forte attivista dei movimenti femminili americani. Ai ai ai, non ve la posso convalidare. Perché non era giusta. E allora forse era giusta la B, ovvero si ipotizzava che fosse la prima fidanzata di Jimi Hendrix e che addirittura gli regalò la sua prima chitarra. E a costo di apparire dispettoso non vi passo neanche questa. E allora la prego, convalidi la risposta esatta, ovvero la C. Complimenti a chi esatto ha riconosciuto in Vivian Westwood l'allora compagna di Malcolm McLaren, che nel 71 aprì il celeberrimo Let It Rock, negozio nel quale si vendevano i vestiti punk. Lei è mai andato a comprarsi un giubbetto a Let It Rock? No, però me li facevo spedire regolarmente tutte le settimane. È una bugia, è una bugia. Avrei voluto farlo, ma ad ogni modo questa è la testimonianza di come anche attraverso la moda si possa dare un contributo fondamentale alla musica rock. Bravo freak. Oh yeah, it's only rock and roll, but we like it. Potential heights bomb. differenze di pane, burro e rock and roll, l'orgoglio dei manicomi in diretta, qui con noi come al solito, l'affascinante, lo scintillante, Roberto Fricantoni, buona giornata! Dan Rosnano, bestarges, ah, orgoglio! Frick, mannaggia, non si capisce niente, Spadino, non è il microfono? Parla, prova? Avor. No, non si capisce niente di quello che dici, Frick, cos'è successo? Osmon, oxy, becmon. Non riesco a capire cosa dice. Orduia! Ostuia, ostuia, ostuia. Non capi, ottuia, ottuia, cosa vuol dire? Aiuto, aiuto. Aiuto, aiuto dici? Cosa vuoi? Cosa posso fare? Scrivimelo su un foglio, vai. Ostuia, alolli. Pillola, la. Le pilloline, ho capito. Pillola. Tu stai parlando ancora al contrario, Frick, ancora quella storia del demonio. Quella cosa che hai firmato, che no. Forse non hai firmato. Guarda, adesso ti do la pillola, però aspetta, quando parli al contrario mi fa impazzire. Redazione, passatemi i palindromi, le frasi che si possono leggere da un capo al... Leggimi a dosi di soda, dai, dillo. A dosi di soda. Ostuia, tuia. No, tuia non me ne frega niente. Leggimi qua, Amore Roma, uno semplice, vai. Amore Roma. Amore Roma, suona giusto. Oh, facciamo uno. Ostuia. No, lascia sta, adesso te la do la pillola. Facciamone un ultimo, lungo, ti va? On, pillola, on. Hai detto sì, l'ho capito, vai. Facciamo questa. Osiride ci darà radice di riso. Osire id estidar aradis ediriso. Mi fa impazzire questa cosa. Tieni la pillola, mangia, dai. Pillola, pillola. Prova, Fricantoni, ci siamo? Va che test, ti è tornato anche. Test. Eccolo lì. Test, tornato. Prova. Fric, prova. È successo ancora. Cosa? Io non mi sono accorto di niente. Né, come no? Stai parlando al contrario, Frick. Come l'altra no. volta. Stavi parlando al contrario. No. Ti ho dato la pillola e posso credere. Sì. Quella storia del contratto che non hai firmato. Ma... e che Vasco l'ha firmato, non ci vedo chiaro. Ma era queste un sono signore cose... strano. Questa cosa mi fa spaventare. Io mi spavento quando tu parli al contrario, capito? Ma era un signore strano, gentile, però, capito. Ben vestito, cordiale. Tra l'altro, perdonami, saresti il primo artista ad aver fatto un patto col diavolo che non è diventato ricco. Ah, ma infatti io non avevo firmato, no. Sai, c'era una goccia di sangue, ma era un incidente. Tu devi stare lontano da certe persone, Frick, fidati. Ma sembrava perché così distinto. Tu sei buono dentro, loro sono cattivi, lasciali stare, non firmare più nulla. Ma guarda te. Grazie comunque per la pillola, troppo gentile. Right, Roxanne. Ladies and gentlemen, Police, Roxanne. 8:39 minuti primi. Allora, vi ho segnalato che questo 12 di novembre è una giornata particolare per svariati motivi, anche perché è la giornata nella quale usciranno i rilevamenti Audiradio, si chiamano così, quindi in dati verranno comunicati l'ascolto dei vari programmi delle varie radio. Sapete quanto ci teniamo a pane, burro e rock and roll? Nella famosa sfida Davide contro Golia, sottotitolo La nicchia vincerà. Noi sappiamo che prima o poi vinceremo noi. Adesso magari non subito oggi, metto le mani avanti, però chi ne sa, prima o poi ce la faremo, no? In questa battaglia giochiamo sporco e c'è un'amica che ci aiuta sopra a tutti. Si chiama Rosy e ci fa vedere gli uomini nudi. Ciao Rosy. Ciao, buongiorno a tutti. Rosy è sempre meno convinta di questa rubrica. Io devo spezzare svariate lance in favore di Rosy. La prima è che siamo stati noi a costringerla a rintracciare uomini nudi, vero? È vero, è vero. Altrimenti non l'avrei mai fatto di mia iniziativa. Esatto. E soprattutto è che ci crede talmente tanto a pane, burro, rock and roll che ci sta dando una mano. Questo perché succede a lei come ad altri dei nostri inviati di pane, burro, rock and roll, che piano piano la gente inizia a riconoscerla. Dico bene? Sì, purtroppo. E adesso, finché riconoscono il tassista che fa le luminarie, vabbè, finché riconoscono quello là che fa lo spionaggio delle altre radio, varrebbe. Ah, ma tu sei Rosy, quella che fa vedere gli uomini nudi alla radio. Sì, sono io, ti capisco Rosy. Ma ripeto, pane, burro e rock and roll ti difenderà fino alla morte, ok? Va bene, va bene. Settimana scorsa abbiamo sdoganato il pistolino. Ecco. Questo per ricordare cosa stava succedendo in questa rubrica. Proseguiamo? Proseguiamo. Va bene. Sono più coperti di quelli di settimana scorsa. Ovvero, che calendario abbiamo scelto? Abbiamo scelto Birdman 2008, ovvero il calendario degli uomini orsi o sacchiotti. Esiste un calendario degli uomini orsi? Praticamente sì. Dunque, sono 12 figuranti, sì, tutti barbuti, tutti non toelettati, sì, tutti pelosi. Aia. Alcuni sono raffigurati a torso nudo semplicemente, ma quella che ti ho scelto io è bellissima. Quindi è un calendario di Birdman, uomini orso nel senso che sono villosi. Villosi, villosi. Scusa, così, sì, in maniera personale, apprezzi l'uomo villoso tu Rosy o no? L'avevamo già detto, comunque sì. Ah sì, ok, scusa, mi ero perso, ma forse stavo pensando ad altro in quel momento. A Rosy piace l'uomo villoso, quindi hai apprezzato questo calendario? Sì, a parte le pose che sono un po' ridicole. Perché fanno un po' l'orsacchiotto? No, perché vado, parto. Vai, vai, vai Rosy, vai, è tua la radio, vai pure. Allora, il personaggio in questione, credo sia il mese di agosto, sì, è un uomo comunque con il torace villoso, sì, ritratto accucciato, quindi accovacciato, seduto, sì, con una canottiera di rete a maglia larga da cui si intravedono i peli. Che escono a ciocche, immagino. A mazzi, esatto, proprio. È pelato. Non ha capelli. Sì. No, però fammi salire gli ormoni alle radioascoltatrici. Il dramma è che è nudo. Dalla vita in giù è nudo. Perché il dramma? Perché è ridicolo vedere un uomo nudo accovacciato. Cioè, tu immaginati la scena di questo accovacciato. Guarda, ma io faccio anche finta di non immaginarmela se non ti offendi, però se vuoi un pensierino. Ce l'ho fatto, sì, ci ho pensato, ok, no. Vado avanti, perché poi prosegui, ha Rosy, guanti di pelle, sì, con le dita di fuori e una catenazza tipo catena da bicicletta al collo. Come catena da bicicletta? Una catena molto punk, molto a maglia larga. Poverino come calendario, insomma. Sì. Alla buona, via così. Alla buona. Senti, so che questa domanda non dovrei farla, ma settimana scorsa abbiamo sdoganato l'attrezzo e eri rimasta un po' delusa. No, questo... Questo già è di dimensioni normali, credo. Normali? Perché credo, no? Sì, se lo dici. Quell'altro che ti ho detto. E le rapiscini. Brutte e cattive. E invece qua è normale. Sì, comunque un uomo di una certa età avrà raggiunto la maturità. Non parliamo di numeri, Rosy, fa sempre. La matematica non c'è mai andata. Lasciamo stare. Sì, normale. Normale. Normale. So che hai in cantiere altri calendari che potranno regalarci altre soddisfazioni, ma ce ne occuperemo, cara Rosy. Più avanti. Intanto, grazie mille. Senti, vuoi che iniziamo a chiamarti con un altro nome? No, per la private. No, ma no, che ce frega. Rosy, tranquilla, Se riconoscete Rosy, ringraziatela, non fateci fare figuracce. Oh, ma tu sei quella. Cioè, insomma, è un servizio importante e noi ti ringraziamo per questo. Prego. Rosy, sappi anche che le altre radio non ce l'hanno, una radioascoltatrice che fa questo servizio. No, non ce l'hanno, lo so, di sicuro. Dovresti chiedere al patentato 147 di controllarle tutte. Chiederemo a lui di controllare, sarà fatto. Beh, Rosy, un bacio, grazie mille. Ciao. Che c'è? To your smell. Hai letto quest'articolo sui barboni che dormono sotto il cavalcavia della Ghisolfa? No. Cos'è un cavalcavia? È un essere mitologico, metà cavallo e metà cavia. Pensa Frigo, pensa a cosa potremmo fare se solo riuscissimo a controllare un cavalcavia. Potremmo conquistare il mondo. Cavalcavia, cavalcavia. Viva i barboni del cavalcavia della Ghisolfa! Viva la Ghisolfa, viva il cavalcavia, viva Frigo e Rogna! Maledetti umani, abbasso! Wabba blah bam boom, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy. Wabba blah bam boom, I got a gal named Sue, she know just what to do. I got a gal named Sue, she know just what to do. She rock me to the east, she rock me to the west, she's the gal that I love best. Tutti frutti, oh Rudy. Oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy. Bop, bop, loom, hop, lop, bam, boom. I got a gal named Daisy, she almost drive me crazy. I got a gal named Daisy, she almost drive me crazy. She knows how to love me, yes indeed. Boy, you don't know what she do to me. Tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy. Well, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy. Bop-bop-a-loom, bop-bop-a-loom, I got a gal named Daisy, she almost drive me crazy. I got a gal named Daisy, she almost drive me crazy. She knows how to love me, yes indeed. Boy, you don't know what she do to me. Tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy. Allora, ci tengo a chiarirlo, sì. Ecco, una volta per tutte, anche di fronte alla redazione, sì, sì. Non lo faccio per soldi. Lei sta parlando del corso per diventare come Frico Antoni. Infatti, dopo giorno, numerosi gli iscritti a questo corso per diventare come lei, tra l'altro anche tramite il numero di SMS della radio, cosa che non ritengo giusta. Quale? Il numero 335 177 77, esattamente il quello. Numero che non debbo dare. No, non lo deve dare, perché qui soldi poi arrivano in tasca a lei e la cosa, sì, non ci sembra veramente giusta. Ma guardi, è una fatalità, è un caso. Poi voi del resto avete insistito, io che sono naturalmente modesto mi sono schermito. Ricordiamo che per diventare come Frico Antoni basta allenamento, allenamento, allenamento. In altre parole, esercizio, esercizio, esercizio. La redazione ci ha rintracciato un altro dei numerosi iscritti a questo corso. Sentiamo con chi abbiamo il piacere di parlare. Pronto? Benvenuto a Rock FM. Pronto? Ciao. Ciao. Chi sei? Sono Franco da Milano. Franco da Milano. Anche tu l'irresistibile desiderio di diventare come Frico Antoni. Beh, scusi, grazie Franco per il buon gusto. C'è chi, voglio dire, c'è chi ha cantato il suo desiderio di diventare come, mi aiuti, io non, cioè, l'ho anche rimosso. Come Biagio Antonacci. Come Biagio, sì. Antonacci, insomma, non volevo dire quel nome, ma mi è scivolato. Lei, Franco, invece vuole diventare come Frico Antoni. Sì, come lui. È mio, da quando sono bambino e voglio diventare come Frico. Anzi, a tal proposito vorrei chiedere, maestro, io ho pagato la prima rata, però non ho ancora ricevuto niente a casa, sì. Volantini, niente, sì, audio cassette. Io l'ho già sentita questa cosa. Mi scusi, è la redazione che è un attimo la mia redazione personale, sì, in effetti che è un attimo in ritardo, ma vedrà, provvederemo. Usciamo da questo. Mi esercito da solo, non so. Franco, è giusto. Questo è interessante, giusto. Anche davanti allo specchio. Qual è il metodo che lei usa? Sì, sì, davanti allo specchio, oppure alla sera prima di andare a letto, non so, nei momenti liberi. Franco, se la sente di provare così in diretta radiofonica una freddura, un divertissement, un aneddoto. Un calambur, quello che ha, quello che ha. Ma bella o brutta? Beh, bella, la più bella che ha. Beh, naturalmente, insomma, la migliore, la migliore. Ci faccia ridere, la prego. Se vuole diventare va bene, come Freak. Prego. Io rido già. Sì. Io rido già, Gliela faccia allora, dire. Vale. Un signore porta la sua autovettura dal meccanico, chiede cortesemente al meccanico: scusi, mi controlla se la freccia funziona? Adesso sì, adesso no. Adesso sì, adesso no. L'ho capita anch'io. Franco, sei decisamente sulla strada giusta. Grazie per aver partecipato al corso per diventare come Freak Antoni. Mi raccomando, la seconda rata. Comunque grazie per aver partecipato. Ciao. Un abbraccio a Franco. Perspicace, un giovanotto perspicace. Love, Bad Name, John Bon Jovi a chiusura di questo lunedì 12 di novembre, delirante come al solito. Eccola qua, la fine che arriva, inesorabile anche quest'oggi. Spadino, ti è venuta così oggi la chiusura? Rosy, qua c'è grandissima solidarietà, tra l'altro da parte delle radioascoltatrici. Ti sei guadagnata una caipirinha da parte di Alba. Rosy, ti adoro, scrive Martina da Pisa, e tante altre, insomma. Siamo in squadra insieme, stai tranquilla. Questa è la fine, ci sentiamo domani, sempre in diretta dalle 7 alle 9. E se arriveranno i dati, sicuramente avremo vinto, perché noi siamo avanti anni luce. Siamo in una forma tecnica perfetta. 8:59, arriva Garavelli. Vi lasciamo in sua compagnia fino al mezzodì. Pane, burro e rock and roll. Ma senti che sigla, dai. La tua colazione rock. Tanti commenti positivi anche sulla rubrica di Freak che parla il contrario. Grazie. Fa sempre piacere i complimenti, eh? Se cerchi una radio che fa roccheggiare, eccola qua. Ecco, l'hai trovata. No, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Ed eccolo pronto in postazione. Spadino, aprigli il microfono. Garavelli. Fatto, ci sono, ciao. Vai. Buona giornata. Sarà un lungo lunedì, eh. Urca, non farmi dire altro. Senti, ho sentito questa cosa della cena che abbiamo regalato. Ah, è sì. Già successa la cosa, avviene stasera? No, è successa venerdì. Ma la cena quando è stasera? La cena è questa sera. Qualcosa non funziona su questo microfono. E se lo stai aprendo un altro, Spadino, per cortesia, lasciami aperto. È quello, solo questo. È aperto solo quello. E ci sarà entrata acqua anche qui. Siamo in condizioni tecniche veramente da naufraghi, altro che Isola dei Famosi. Dovrebbero girarlo qui un Survivor. DJ Survivor. Stavo dicendo, c'era un SMS di un amico stamattina, un SMS è arrivato credo nel weekend, di uno che diceva: mi dite dove vanno a cenare perché voglio l'autografo di questa qua. Guarda, io me ne per sono l'autografo lavato le mani. Oggi alle 3 lei è qua nei nostri studi. Ah, quindi, perfetto. La porta d'ingresso è qui. Stiamo quella. Parlando se è per un semplice autografo della, basta di quella gran gnugna della cantante dei Nightwish. Ex cantante. Adesso hanno un'altra cantante, quindi lei oggi alle 3 fa l'intervista? Oggi la farà Mrs. Claudia. Non sì. Tu? No, ha detto che viene lei. Chissà come mai. Hai capito? Sì, io sarò presente comunque. Quindi per chi fosse interessato a questa bella ragazza o a Claudia. Esatto. Oggi alle 3. Via Locatelli 1, 20124 Milano, ma sì, passate a trovarlo. E poi a cena saranno in un bel ristorante. Si mangia però a cena bene, lasciamo si mangia in bene. Certo. Soprattutto col vincitore che Claudia poi mi comunicherà. La cena la paga il vincitore la casa discografica. Allora potevo vincere anch'io, mi scorcavo la cena. Esatto. Vabbè. E buon proseguimento di giornata. Grazie, ciao. Ughino. Amore, sono le 9.